A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Lena de Jolocian, dai. C'ho una nipote che è dovuta andare a abitare a Carpi, una sorella che è venuta giù la casa. Qualche persona se ne vanno con la paura, quelli che possono si spostano. E chissà se ritornano, si chiedono gli anziani di Cavezzo, uno dei paesi più distrutti dal terremoto che un anno fa ha sfregiato l'Emilia e il Mantovano. Due scosse, il 20 e il 29 maggio, sconvolsero 54 comuni dove sono morti giovani, pensionati, operai al lavoro, imprenditori, un sacerdote. 27 furono le vittime, 359.000 le tonnellate di macerie già rimosse ed altre arriveranno dai palazzi ancora da abbattere. Un anno dopo quelle scosse che hanno stravolto una delle zone più produttive dei paesi, dei 45.000 costretti ad uscire di casa, 25.000 ancora non sono tornati. E li trovi i terremotati dell'Emilia o nei piccoli villaggetti grigi, proprio come il colore dei container, spuntati come satelliti dell'originario centro antico, o nelle casette di legno costruite accanto a quelle vecchie rigate di crepe profonde. Così ha fatto ad esempio Sandro Romagnoli e così hanno fatto molti altri del comitato Sisma 2012. Io sono uno di quelli che abitano nella casetta vicino alla propria casa. Com'è vivere in una casa di legno? Per 12 mesi scomodo, estremamente scomodo. Tutti noi consideravamo questa cosa a termine, estremamente a termine. Man mano il termine si è allungato. Nel centro di Cavezzo, accanto alle voragini delle case distrutte, altre si apriranno di quelle ancora da abbattere, come a Mirandola, dove era stato allestito il campo più grande, dove tanti ancora non sono tornati, ma lo faranno, dice sicuro il sindaco Maino Benatti. Noi abbiamo dentro ai moduli abitativi, abbiamo adesso circa 220 famiglie, 230 famiglie, con le quali stiamo già incominciando a ragionare di come farli uscire, trovare anche soluzioni diverse. Ecco, quanto tempo più o meno secondo voi sarà ancora necessario perché queste 200 famiglie possano lasciare questi moduli abitativi? Noi stiamo lavorando perché dovevano essere 18 mesi al massimo 24 e lavoriamo perché siano 18 mesi al massimo 24. Si chiamano moduli abitativi temporanei o provvisori perché sono casette messe a struttura che compongono un'area con tutte le attrezzature, i servizi. Quando succedono fatti gravi come un terremoto brutto come quello che avete subito voi, in molti casomai decidono anche di andare nel frattempo da un'altra parte oppure di non tornare. Voi avete questa sensazione? Ci sono anche alcune persone che raccontano, non so, di vicini di casa che sono andati altrove e che casomai rischierebbero di non tornare più. Nel primo momento sì, ma molti sono ritornati e credo che ancora adesso a chi è per qualche motivo ancora lontano pensa di tornare a Mirandola, quindi non c'è un'emigrazione da parte delle persone da qui. Invece da un punto di vista diciamo anche di aiuti, di ricostruzione, sì. Quanto è già partito? Ma è partito molto perché noi abbiamo una situazione che ci dà dei dati molto interessanti da questo punto di vista. Sono già centinaia le case che sono stati gli interventi a cui sono già date o risorse per la ricostruzione o che altrimenti sono già pronte per essere finanziate le progettazioni che sono state fatte su queste abitazioni. Quindi io devo dire che da questo punto di vista la situazione sta giorno per giorno migliorando e io credo che giorno per giorno questo possa essere anche motivo di insomma soddisfazione. Ecco sindaco, e sul fronte imprenditoriale, ecco, chiaramente è stato quello più danneggiato da quel terremoto, oggi un anno dopo che ci può dire? Due cose, uno che gran parte delle imprese ha riaperto e devo dire con grande determinazione da parte degli imprenditori, dei lavoratori, di chi ha dovuto riprendere molto spesso con le proprie risorse. Stanno anche qui arrivando i finanziamenti, ci sono già i progetti di chi ha ricostruito, sono stati vagliati in parte proprio dalla struttura per poi mettere a disposizione le risorse. Devo dire che anche qui però abbiamo bisogno di un aiuto più stringente da parte del governo per quanto riguarda la fase della peso fiscale, della capacità di dare respiro a queste imprese. E io credo che negli emendamenti che abbiamo chiesto possano essere fatti al decreto in attuazione proprio in questi giorni, possano esserci le soluzioni anche per le piccole e medie imprese, che sono quelli che soffrono di più. Cioè, in sostanza, cosa vorreste? Una parte di fiscalità di vantaggio, la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Abbiamo bisogno di dare una mano a quelli che adesso stanno più soffrendo e sono più in difficoltà. Il pessimismo da queste parti dura il tempo di un pensiero veloce. È terra di lavoro questa, di maniche rimboccate, la bassa modenese. Le cicatrici dello squarcio dell'anno scorso sono però ancora tutte lì, come le macerie, accatastate in cantieri, spesso ancora sequestrati. Ma in questo territorio di fatica, sudore, di tradizionale attitudine al darsi da fare piuttosto che a lamentarsi, qui sono rimaste anche le aziende. Non sono scappate altrove in mezzo alla desolazione del sisma. Un anno dopo, ad esempio, a Medolla, come nel resto della bassa modenese, i capannoni, crollati sulle vite degli operai, si trovano accanto alle nuove fabbriche, ripartite laddove erano o altrove nei vari centri di questa terra capace da sola di produrre il 2% del PIL italiano. La morte e la reazione, dunque, si incontrano con uno stesso sguardo in questo distretto eccellenza del biomedicale. Qui ci sono tuttora le rovine, ad esempio, della Hemotronics, tomba per 4 giovani. Qui c'è lo scheletro pronto alla demolizione della Euroset, che qualche chilometro più in là ha prodotto però quasi più del passato, racconta l'amministratore delegato Stefano Foschieri. La nostra azienda deve essere demolita, ma non c'è stata nessuna vittima. Certo è che passare lì davanti e ricordare i momenti tremendi dell'anno scorso con 4 ragazzi giovani che gli hanno ci hanno lasciato la vita, questo fa piangere noi tutti, perché abbiamo visto collassare il capannone sotto i nostri occhi. La vostra fabbrica verrà demolita? Sì, noi la fabbrica è completamente inagibile, non siamo più rientrati. In fabbrica abbiamo delocalizzato tutte le nostre attività, uffici compresi, in attesa a settembre di iniziare a demolire la vecchia per ricostruire la nuova. L'ipotesi di andare proprio altrove non l'avete valutata? No, no, assolutamente, perché noi tra l'altro 3 anni fa acquistammo 20.000 metri di terreno al posto della nostra azienda. Ed è lì che inizieremo a ricostruire la fabbrica, quindi comune di Medolla, esattamente dove c'è l'Euroset ferita. Voi dovete demolire la vostra azienda, che invece poi nel frattempo cosa avete fatto? Avete dovuto riallestire altri capannoni? Certo. Ecco, da un punto di vista di spese, come è andata? Dal giorno del terremoto, il 31 dicembre 2012, abbiamo speso di extra costi 1 milione di euro per poter ripartire. Perché comunque la delocalizzazione vuol dire pagare degli affitti. Comunque, nonostante quello che è successo l'anno scorso, Euroset è cresciuta quasi dell'8% in termini di fatturato, quindi poter crescere dell'8% è stato determinato dalla volontà di ogni singolo dipendente. Il 13 di agosto abbiamo ripreso le attività in pieno al 100%, e nonostante fossimo a ridosso del Ferragosto, abbiamo tenuto chiuso il 15, ma poi fino al 30 di dicembre doppio turno, compresi il sabato, quindi abbiamo avuto un fatturato nell'ultimo trimestre, soprattutto nel mese di dicembre, che è stato esageratamente alto, e questo grazie a tutte le maestranze. Operai e padroni da subito insieme, con le maniche rimboccate e la voglia di ripartire che ha trattenuto qui le aziende, come conferma il presidente dell'Asso Biomedica Stefano Rimondi. La cicatrice fondamentale è quella che, per chi non era assicurato, tardano ancora ad essere corrisposte i contributi che erano stati decisi e stanziati. Ci sono una serie di pratiche burocratiche in corso che hanno fatto ritardare le maggiori aziende, nel giro di pochi mesi hanno ripreso la produzione a pieno regime. Ci sono state aziende che hanno lasciato quel territorio? In attesa di avere ristrutturati gli edifici originali, molte aziende hanno trovato, tramite la collaborazione con altre aziende del settore, la possibilità di riprendere le produzioni delocalizzando. A breve raggio questo ha consentito di utilizzare anche la manodopera, che è una manodopera specialistica, ha fatto molti più danni la spending review del terremoto. Anche molti capannoni devono essere ancora demoliti e ancora bloccati sono anche quelli crollati sulle vite di chi stava lavorando quel giorno in cui la terra tremò. Perché quella non era zona classificata come sismica, come stanno verificando le inchieste aperte a Ferrara e a Modena. A ciascuno il suo. I sigilli circondano ancora le macerie dei capannoni sgretolati sulle vite di tanti operai. Un anno dopo, quei pilastri e quelle lamiere servono ancora, infatti, per fare luce nelle eventuali responsabilità sui crolli. Le regole sono state rispettate, i materiali erano conformi. Su queste domande poggiano le inchieste, tanto di Ferrara, che ha indagato 28 persone, quanto di Modena, che ha iscritto una quarantina di nomi nel registro degli indagati, nei 13 fascicoli aperti, tutti molto complessi, a cominciare da quello sul crollo dell'Emotronics di Medolla, in cui morirono 4 operai, e per questo serve più tempo, spiega il procuratore Vito Zincane. Il consulente, dovendo svolgere indagini complesse di tipo sismologico sulle strutture, sui progetti, ci ha chiesto delle proroghe e abbiamo dovuto concederle. Quella non era considerata zona sismica e per questo quei capannoni non rispettavano una serie di misure di sicurezza che non erano però previste, ricorda Alberto Pavese, direttore del laboratorio di simulazione sismica della Fondazione EUCenter. Gran parte dei capannoni sono capannoni che sono stati progettati in un'epoca nella quale non esisteva una normativa antisismica, alcuni di questi sono crollati, altri sono stati danneggiati in modo molto severo. Ce ne sono molti altri, sia nella stessa zona che nel resto dell'Italia, che hanno questi problemi. Voi, insieme alla Protezione Civile, siete andati a fare una sorta di censimento. Tutto quello che è stato scritto in queste linee guida, in un qualche modo, è stato anche verificato sperimentalmente attraverso appunto le nostre strutture di prova. Insieme alla Protezione Civile, loro hanno tracciato le linee guida per la ricostruzione in sicurezza, che ora è totale, assicura per il comparto biomedico il presidente Stefano Rimondi. Una ricostruzione con criteri di messa in sicurezza. L'obbligo di legge prevedeva una ricostruzione con una messa in sicurezza per eventi sismici almeno al 60%, ma mi sento di dire che la stragrande maggioranza delle aziende hanno portato l'antisismicità al 100%. Emilia, che riparte con la consapevolezza di essere a forte rischio sismico. Adesso sappiamo che purtroppo non siamo immuni, però attualmente, ripeto, le costruzioni hanno un livello di sicurezza pressoché totale. Ma c'è chi i propri capannoni deve ancora batterli e nel frattempo ha cercato di ripartire con una struttura improvvisata, ma è complicato risalire la china e i clienti scappano mentre non arrivano i finanziamenti. La burocrazia ci sta uccidendo, ripetono in coro. Io mi vado a legare attorno a un palo a Bruxelles, a me mi sta bene che abbiano fatto ripartire 2 scuole, 3 scuole, qui dobbiamo far ripartire le aziende. Davanti alle macerie dei suoi capannoni distrutti da cui fu estratta la moglie, la voce di Iorio Grulli si gonfia di rabbia e Danovi di Modena, da quel che resta della sua azienda di tessuti e passamaneria, vuole portarla fine in Europa la sua protesta per avere in mano i fondi stanziati per frenare la caduta e ripartire davvero con meno burocrazia, dice. Mirandola, Cavezzo, Rovereto, Novi, da queste parti qui le aziende sono tutte ferme, qua si perdono i clienti, non so che cosa fare, spese 150.000 euro per presentare le carte in regione, ma quelli sono pazzi, qui ci sono dei capannoni che sono rasi dal suolo, ci vogliono dei soldi, ma ce ne vogliono tanti. Molti sono stati i danni subiti anche dall'agricoltura, 1 miliardo col parmigiano reggiano in testa. Quel terremoto non è stato però l'unica sventura di quell'anno per questa zona, in cui non ci siamo fatti mancare niente, sorride amara Eugenia Bergamaschi, presidente Confagricoltura Modena, mentre ricorda siccità, piogge torrenziali eppure la tromba d'aria. e la burocrazia che è stata messa in piedi è quella che uccide un po' la ricostruzione, ecco. In questa provincia non ci siamo fatti mancare niente, cioè legati al terremoto abbiamo avuto l'annata più siccitosa che si ricordi, poi abbiamo avuto un periodo che non è ancora finito di piogge praticamente torrenziali, con cui abbiamo avuto frane e dissesti, poi abbiamo avuto una tromba d'aria, i cali si sono avuti di fatturato in quelle aziende zootecniche che hanno avuto la perdita di capi di bestiame. Continuiamo ad andare avanti, non ci abbattiamo, anche se la situazione è comunque abbastanza difficile, ecco, perché comunque la crisi che lei conosce bene, che attanaglia il nostro paese, è un po' aggravata anche dal discorso di queste sciagure che abbiamo avuto in questo anno. Noi teniamo botte e tiriamo avanti. Teniamo botta, si ripetono l'un l'altro dal maggio dell'anno scorso gli emiliani, ma quando le forze mancano, quando la burocrazia blocca gli aiuti, quando lo Stato non interviene a sospendere le tasse, ad esempio, ecco che per qualcuno il proverbiale ottimismo di questa terra diventa quasi una gabbia, soprattutto quando la missione di una sconfitta è in una saracinesca presto abbassata. Il 30 di giugno cesso 30 anni di attività. Non c'è spazio per i fiori nel paese delle macerie e a Sant'Agostino, nel Ferrarese, Ivana Cavicchi chiude la saracinesca con la morte nel cuore, oltre che negli occhi. Non c'è spazio per i fiori nel paese dove le chiese crollate non ospitano più matrimoni e il cimitero ha le tombe transennate. Non c'è spazio per i fiori quando il lavoro è svanito insieme alla scossa, ma non alle tasse. Sono gli artigiani, i piccoli imprenditori, le aziende familiari, infatti, quelle più schiacciate in silenzio dalle conseguenze dei crolli di un anno fa e dalla convinzione generale, nota amara Ivana, che tanto noi ce la saremmo cavata comunque. E invece, davanti ad un fatturato crollato a 6.000 euro, ora Ivana lancia l'SOS. Stiamo morendo tutti. Non c'è ricostruzione, queste sono veramente delle morti annunciate. Cosa me ne sono fatta io di andare in negozio alle 3 di mattina per venire a casa alle 8 di sera a non festeggiare un Natale, una Pasqua con la mia famiglia? Non abbiamo più voglia di vivere, nessuno. Soli come Ivana si sono sentiti per molti mesi anche gli abitanti dei paesi del Mantovano, ugualmente colpiti dal terremoto del maggio 2012, ma molto meno sotto i riflettori. Qui, nelle terre del terremoto dimenticato, centinaia di famiglie sono ancora fuori casa. I fondi per la ricostruzione ancora non arrivano e quelli europei sono bloccati in un gorgo di burocrazia e competenze. Nelle terre del terremoto dimenticato, il Mantovano, cioè, i sindaci come Luca Malavasi, primo cittadino di Quistello, ora chiedono di essere trattati come i vicini emiliani. La situazione è critica su più fronti. Stiamo attendendo l'adeguamento delle ordinanze per le private abitazioni al test emiliano. Secondo, dobbiamo sbloccare i 38 milioni di euro dei fondi di solidarietà dell'Unione Europea, che sono arrivati a Milano, alla struttura commissariale, il 18 di dicembre, ma che ancora non possiamo utilizzare. Oggi abbiamo 38 milioni di euro che sono ancora fermi e che non possiamo spendere, opere che non possono partire. Tutti i comuni più colpiti hanno ancora i municipi, strutture provvisorie. Questi fondi potrebbero servire a risistemare i palazzi storici, i centri abitati dei comuni più colpiti e invece sono ancora bloccati. Terzo punto. Entro il 7 di giugno dovrebbe essere effettuata una verifica dell'adibita sismica dei capannoni, delle attività produttive. Chiediamo anche una proroga su questo tema, in quanto le imprese non hanno fatto in tempo, i tecnici sono bloccati e oberati dalle pratiche, quindi serve una proroga su questo. Quindi c'è stato un problema normativo che vi ha rallentato nel percorso di ripartenza rispetto all'Emilia? Assolutamente sì, il problema è a monte quando si è deciso di dividere sostanzialmente la gestione dell'emergenza secondo le regioni e quindi ogni regione ha seguito il suo percorso. Ecco, ma voi avete ancora anche famiglie che sono fuori casa? Ci sono ancora 151 famiglie fuori casa. Stesso terremoto, ma regioni e sorti completamente differenti. Così nel Mantovano le disavventure giudiziarie e politiche del vecchio Pirellone si sono trasformate in lunghi mesi di blocco per i paesi squassati dal sisma, come Moglia, dove 200 famiglie sono ancora fuori casa, lamenta il sindaco Simona Maretti. È diventato ormai pressante e ineludibile avere i contributi per i privati, i contributi per le imprese e le risposte sul fondo di solidarietà dell'Unione Europea, urgentissime, sollecitiamo il governo. Un anno dopo, Mantova soffre anche per uno dei suoi gioielli ancora chiusi, la celeberrima Camera degli Sposi del Mantegna, che è ancora inaccessibile proprio per le crepe del Palazzo Ducale. Rialzarsi dalle macerie di un terremoto significa anche recuperare i punti di riferimento della propria cultura e del proprio paesaggio. Anche per questo, e simbolicamente, proprio nel giorno della seconda e più devastante scossa del 29 maggio 2012, a Medolla ora viene inaugurata la nuova chiesa. Un'inaugurazione nello stesso giorno in cui l'anno prima tutto crollò. Quasi a prendere coraggio noi stessi, il paese, l'intera comunità cristiana, e dare un segnale alla base intera che è possibile anche risorgere, diciamo, dalle proprie macerie anche abbastanza velocemente, ecco. Un anno dopo a Medolla l'apertura della nuova chiesa diventa per tutti motivo di coraggio, per dirla con Don Davide. Il terremoto qui ha cancellato tante vite, ma ha anche sfregiato il profilo della terra, privata dei suoi campanili. 147 crollarono o furono seriamente danneggiati e di decine di chiese antiche. Con due scosse la bassa ha perso molti suoi punti di riferimento ed è per questo che la riapertura di una chiesa diventa la leva con cui innalzare la speranza di tutti, e la speranza è più importante dei soldi che non c'erano. Sul sito di Radio 24 ci sono tutti gli approfondimenti che abbiamo dedicato al terremoto dell'Emilia e del Mantovano. Segnalateci le vostre storie, segnalateci i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra, hashtag a ciascuno il suo. Ciao a tutti, a presto.